7. La realtà capovolta, seconda parte. All'inizio gli invasori erano semplici bande di predatori che uccidevano e saccheggiavano. Nell'antica Europa, per esempio, l'improvvisa scomparsa di culture radicate coincide con la prima comparsa delle tombe di capi Kurgan. Nella Bibbia leggiamo di come intere città venissero sistematicamente rase al suolo e di come le opere d'arte, tra cui le immagini più sacre dei conquistati, gli idoli pagani, tra virgolette, di cui ci parlano i biblisti, fossero fuse in monete d'oro per essere trasportate più comodamente. Ma dopo poco i nuovi dominatori iniziarono a cambiare. Essi, poi la loro discendenza, nipoti, a loro volta discendenti di costoro, adottarono in parte i valori, le tecnologie più avanzate, gli stili di vita delle popolazioni conquistate. Si stanziarono e spesso presero in moglie donne indigene, come i sovrani Micenei a Creta e il re Salomone a Canaan. Si appassionarono agli aspetti più raffinati della vita, si costruirono palazzi e commissionarono opere d'arte. Così, gradualmente, dopo ogni ondata di invasioni, si riaffermava l'impulso verso una maggiore raffinatezza e complessità tecnologica e culturale. Ogni volta, dopo un periodo di arretramento culturale, riprendeva il corso interrotto della civiltà, ma questa aveva ormai preso una direzione differente, perché se gli uomini al vertice volevano mantenere le proprie posizioni di dominio, c'era un aspetto della cultura precedente che non poteva essere assorbito. Questo aspetto, o più propriamente complesso di aspetti, era l'essenza fondamentale, pacifica, sessualmente e socialmente ugualitaria, del precedente modello sociale mutuale. Far continuare i due sistemi, quello dominatore sovrapposto al precedente mutuale, comportava il rischio enorme che quello più antico, con il fascino che esercitava sulla gente assetata di pace e di libertà dall'oppressione, potesse riacquistare la sua forza. Il sistema socio-economico precedente, in cui le donne a capo di clan matrilineari possedevano la terra come amministratrici fiduciarie del popolo, era dunque una minaccia costante. Per consolidare il dominio delle nuove elite al potere, era necessario che le donne fossero private delle loro facoltà decisionali. Parallelamente, le sacerdotesse dovevano essere spogliate dell'autorità spirituale. La patrilinearità avrebbe dovuto sostituire la matrilinearità anche tra i popoli conquistati, e così avvenne. Nell'antica Europa, in Anatolia, Mesopotamia, Canaan, dove le donne erano ormai sempre più considerate alla stregua di dispositivi di produzione e riproduzione controllati dall'uomo, anziché membri importanti e indipendenti della comunità. Ma non ci si limitò ad allontanare le donne dalle posizioni di responsabilità e potere che avevano in precedenza. Anche i nuovi progressi tecnologici venivano utilizzati per rafforzare e mantenere un sistema socio-economico basato sulla gerarchia. Come è tipico delle società dominatore, ora si attribuiva la massima importanza alle tecnologie di distruzione. Gli uomini più forti e brutali erano altamente onorati e ricompensati per la loro abilità di conquista e di saccheggio. Le risorse materiali venivano in misura crescente utilizzate per armamenti sempre più sofisticati e letali. Pietre preziose, perle, smeraldi e rubini venivano incastonati nelle impugnature di lance e spade, e anche se le catene con cui i conquistatori trascinavano dietro di sé gli schiavi erano ancora fatte di metalli vili, i carri di questi grandi condottieri, re e imperatori, ora più raffinati, erano decorati di oro e di argento. Con la ripresa dell'evoluzione tecnologica, dopo il ristagno o il regresso del periodo delle invasioni, aumentava la quantità delle merci e delle altre accumulazioni materiali. Ma la loro distribuzione era cambiata. A Creta si dava importanza alle opere pubbliche e a un buon tenore di vita per tutti. Ora che le nuove tecnologie avevano aumentato la produzione di beni materiali, gli uomini al potere si erano impossessati della maggior parte delle nuove ricchezze e avevano lasciato ai loro sottoposti soltanto le briciole. Anche l'evoluzione sociale aveva ripreso la sua spinta in avanti e le istituzioni politiche, economiche e religiose continuavano a crescere in complessità, ma nel momento in cui le nuove tecnologie richiedevano nuove specializzazioni e funzioni amministrative, queste venivano accaparrate dai conquistatori autocratici e dai loro eredi. Secondo il modello caratteristico di questa presa di potere, i conquistatori cominciavano con l'ottenere le posizioni di dominio distruggendo i territori conquistati, si impadronivano delle loro ricchezze e non ne creavano di nuove. Poi, quando una maggiore complessità tecnologica e sociale creava il bisogno di nuovi ruoli nella produzione e nell'amministrazione della ricchezza, ci si impadroniva anche di questi. Gli uomini al potere occupavano le posizioni più vantaggiose e redditizie, il resto veniva distribuito ai sottoposti più servizievoli e ubbidienti. Tra i nuovi ruoli, per esempio, c'erano quello di esattore dei tributi, in seguito esattore delle imposte, e altre funzioni burocratiche che davano a chi le occupava non solo potere e prestigio, ma anche ricchezza. Le nuove posizioni prestigiose e remunerative certamente non venivano assegnate alle donne a capo dei clan matrilineari o alle sacerdotesse che rimanevano fedeli alle vecchie tradizioni. Invece, come risulta dai documenti di città sumere come Elam, tutte le specializzazioni di un certo potere e prestigio e tutti i nuovi ruoli sociali, e in misura crescente anche quelli vecchi, venivano sistematicamente trasferiti dalle donne agli uomini, perché ormai la forza e la minaccia della forza determinavano chi controllava i canali della distribuzione economica. La gerarchizzazione era il principio riconosciuto dell'organizzazione sociale. A partire dal dominio sociale della metà maschile dell'umanità, fisicamente più forte su quella femminile, tutte le relazioni umane si sarebbero adeguate a questo modello. Tuttavia, non si poteva usare sempre e comunque la forza per ottenere ubbidienza. Si doveva fare in modo che gli antichi poteri che governavano l'universo, simboleggiati dal calice che dà la vita, venissero sostituiti da nuove e più potenti divinità, le cui mani ormai impugnavano la spada sovrana. E per riuscirci, bisognava fare innanzitutto una cosa, abbattere la dea stessa, e non solo la sua rappresentante terrena, la donna, dalla posizione di preminenza che occupava. In alcuni miti medio orientali si raggiunge lo scopo narrando l'uccisione della dea. In altri, ella viene sottomessa e umiliata con uno stupro. Per esempio, la prima volta che viene citato nella mitologia del Medio Oriente il potente dio Enlil è per raccontare il suo stupro della dea Ninlil. Simili racconti avevano un fine sociale molto importante. Simboleggiavano e giustificavano l'imposizione del dominio maschile. Un altro espediente diffuso era quello di ridurre la dea al rango subordinato di consorte di un dio maschio più potente. Oppure si trasformava la dea in una divinità guerriera. Per esempio a Canaan c'era la dea Ishtar, assetata di sangue, divinità della guerra venerata e temuta. Analogamente in Anatolia la dea venne trasformata in una divinità marziale caratteristica, completamente assente nei testi più antichi. Allo stesso tempo, molte delle funzioni che prima erano prerogativa di divinità femminili furono riassegnate a deità maschili. Per esempio, quando il patrono degli scribi divenne un dio, nei templi e nei palazzi vennero impiegati solo scribi maschi e la storia iniziò a essere scritta secondo un punto di vista androcentrico. Ma anche se Canaan, come la Mesopotamia, già da qualche tempo si stava avviando verso un modello sociale dominatore, non c'è dubbio che le invasioni delle 13 tribù ebree non solo accelerò, ma radicalizzò questo processo di trasformazione sociale e ideologica. Infatti, nella Bibbia soltanto è totalmente assente la dea come potenza divina. Questa assoluta negazione che il femminile e quindi la donna partecipi della divinità è particolarmente interessante, considerato che gran parte della mitologia ebraica deriva da miti mesopotamici e cananiti preesistenti. Ed è ancor più notevole alla luce delle testimonianze archeologiche, le quali rivelano che anche molto tempo dopo le invasioni ebraiche, i popoli di Canaan, tra cui gli ebrei stessi, continuarono ad adorare la dea. E i ritrovamenti archeologici non lasciano dubbi che alla fine della monarchia ebraica il culto degli antichi dei di Canaan faceva parte integrante della religione ebraica. Inoltre, in questa religione popolare, il culto della dea svolgeva un ruolo molto più importante di quello degli dei. Per esempio, nel tumulo di Tel Beit Mirsim, la città biblica di Davide, a sud-ovest dell'attuale Hebron, gli oggetti religiosi che si trovano con maggior frequenza negli strati più recenti dell'età del bronzo sono le cosiddette statuette o placche di Astarte. ma persino dopo che la città fu ricostruita in seguito alla distruzione avvenuta durante l'invasione ebraica del 1300-1200 a.C. circa, le testimonianze archeologiche non lasciano dubbi che queste statuette fossero assai popolari tra gli ebrei. Ovviamente c'è qualche allusione anche nella Bibbia stessa. I profeti Esdra, Osea, Neemia e Geremia si scagliano continuamente contro l'abominio del culto di altri dei. Sono particolarmente scandalizzati da coloro che adorano la regina del cielo, e la loro ira più tremenda si scatenava contro la infedeltà delle figlie di Gerusalemme, che comprensibilmente stavano ricadendo nel peccato, tra virgolette, di credenze in cui gli uomini non monopolizzavano ogni autorità temporale e spirituale. Ma a parte simili passaggi occasionali, sempre denigratori, non si fa alcun accenno all'esistenza o alla possibilità di una divinità che non sia maschile. Sia esso Dio del tuono, della montagna o della guerra, o in seguito il più incivilito Dio dei profeti, nella Bibbia c'è solo un Dio, l'imperscrutabile e geloso Geova, che nella successiva mitologia cristiana invia il suo unico figlio maschio, Gesù Cristo, a morire per espiare le, tra virgolette, colpe dei suoi figli. E sebbene il termine ebraico Elohim abbia radici sia maschili che femminili, che tra l'altro spiegano come nel primo racconto della creazione in Genesi tanto la donna quanto l'uomo poterono essere creati a immagine di Elohim, tutti gli altri appellativi della divinità, come re, signore, padre, pastore, sono specificamente maschili. Se leggiamo la Bibbia come letteratura sociale e normativa, l'assenza della dea è assolutamente rivelatrice del tipo di ordine sociale che si sforzarono di istituire e conservare gli uomini che nel corso dei secoli scrissero e riscrissero questo documento religioso. Infatti, simbolicamente, l'assenza della dea dalle sacre scritture, ufficialmente approvate, significava la mancanza di un potere divino che proteggesse le donne e le vendicasse per i torti subiti dall'uomo. Non vogliamo con questo dire che la Bibbia non contenga in assoluto precetti etici. Per esempio, molti insegnamenti di Isaia, da cui derivò gran parte della successiva dottrina di Gesù, sono più consoni a una società mutuale che a una dominatore. Nondimeno, insieme a quanto v'è di umano e di elevato, molto di ciò che si trova nella Bibbia giudeo-cristiana è un sistema di miti e leggi volto a imporre, mantenere e perpetuare un sistema di organizzazione sociale ed economica dominatore. Come i Kurgan, che diversi millenni prima avevano devastato l'antica Europa, le tribù ebree che avevano occupato Canaan, provenendo dai deserti del sud, erano invasori periferici che portavano con sé il proprio dio della guerra, il fiero e geloso Yahweh o Geova. Costoro erano più progrediti tecnologicamente e culturalmente rispetto ai Kurgan, ma come gli indoeuropei erano dominati da uomini bellicosi ed estremamente violenti. In vari passaggi dell'Antico Testamento si legge di come Geova ordini di distruggere, saccheggiare e uccidere e di come, effettivamente, questi comandi siano eseguiti scrupolosamente. La società tribale ebraica, come quella dei Kurgan e di altri indoeuropei, era anche estremamente gerarchica ed era governata al vertice dalla tribù di Mosè, i Leviti. Al di sopra di questi c'era un'elita ancora più ristretta, era la famiglia di Konat o Cohen, i sacerdoti ereditari che discendevano da Aronne, che erano le autorità supreme. Come si legge nell'Antico Testamento, gli uomini di questo clan facevano risalire i loro poteri direttamente a Geova. Inoltre, gli studiosi ci dicono che con ogni probabilità fu questa elite sacerdotale a eseguire buona parte del lavoro di riscrittura del mito e della storia per consolidare la propria posizione dominante. Infine, a completare e rafforzare la configurazione di violenza, autoritarismo e dominio maschile della società dominatore, c'è l'esplicita dichiarazione dell'Antico Testamento che la donna è dominata dall'uomo per volere divino. Perché, come i Kurgan e altri invasori indoeuropei che tanta distruzione avevano compiuto in Europa e in Asia Minore, l'antica società tribale degli ebrei era un sistema rigidamente dominato dal maschio. Abbiamo visto che il culto della dea era diffuso nella religione dei popoli ebraici ancora in epoca monarchica. Occasionalmente ci furono anche donne come la profetessa e giudice Deborah che giunsero a una posizione preminente, ma nel complesso l'antica società ebraica era governata da un'elite ristretta e quel che è peggio, Come possiamo ancora leggere nell'Antico Testamento, le leggi volute da questa casta dominante maschile non consideravano le donne esseri umani indipendenti, ma una proprietà privata degli uomini. Da prima appartenevano ai loro padri, in seguito erano destinate a diventare proprietà dei loro mariti o padroni, così come i figli che avrebbero generato e le figlie. Sappiamo dalla Bibbia che le giovani e le donne delle città-stato conquistate, che, come dice la Bibbia di Re Giacomo, non avevano conosciuto un uomo con lui giacendo, ovvero erano vergini, venivano abitualmente prese come schiave, in conformità ai comandamenti di Geova. Nell'Antico Testamento leggiamo anche di servi vincolati da contratto, che la Bibbia di Re Giacomo chiama domestici e domestiche, e di come la legge stabilisse che un uomo poteva vendere la figlia come domestica. È particolarmente indicativo che quando un servo veniva liberato, secondo la legge biblica, sua moglie e i suoi figli restavano indietro, proprietà del padrone. Ma non solo serve, concubine e relativa prole erano proprietà maschile. La celebre storia di Abramo che si prepara a sacrificare a Geova Isacco, il figlio avuto da Sara, illustra drammaticamente che persino i figli delle mogli legittime erano sottoposti al controllo assoluto degli uomini. E come dimostra la storia di Giacobbe, che acquistò la moglie Lea lavorando 7 anni per il padre, era così anche per le donne. Forse il modo migliore per rendersi conto chiaramente di questa concezione disumana della donna è un'attenta lettura del gran numero di proibizioni e precetti biblici che ci sono sempre stati spiegati come mezzi per proteggere la sua virtù. Per esempio, in Deuteronomio 22, 28, 29 leggiamo che se un uomo trova una fanciulla vergine non fidanzata, l'afferra e giace con lei, e vengono scoperti, l'uomo che si sarà giaciuto con la fanciulla dovrà dare al padre 50 sicli d'argento e dovrà fare di lei sua moglie. Apparentemente questo tipo di legge sembra costituire un grande progresso, un passo in avanti morale e umano nell'incivilimento di barbari morali e dissoluti, ma se consideriamo obiettivamente questa legge, nel contesto sociale ed economico in cui fu promulgata, risulta evidente che essa non nasce da alcuna considerazione morale o umana. Semmai era congegnata per proteggere i diritti di proprietà degli uomini nei confronti delle loro, tra virgolette, mogli e figlie. Ciò che in realtà questa legge dice è che, siccome una ragazza senza marito e non più vergine non è più un bene economicamente rilevante, il padre deve essere indennizzato. E per quanto riguarda l'obbligo legale di sposare la ragazza da parte dell'uomo che ha causato questo problema, in una società in cui i mariti hanno poteri praticamente illimitati sulle mogli, difficilmente si può dire che un simile matrimonio forzato sia imposto per riguardo alla ragazza. E anche questa punizione ha a che vedere con l'economia maschile, poiché la ragazza è ormai una merce senza alcun valore di mercato, non sarebbe equo continuare ad accollarla al padre. Deve essere acquistata dall'uomo che ha causato il suo deprezzamento. Il reale intento di tutto questo sistema di abitudini e leggi sessuali, tra virgolette, morali, si rivela ancora più chiaramente in Deuteronomio 22, 13-21. Questi versi riguardano il caso dell'uomo che dichiara che, siccome ha scoperto che la sposa non è vergine, la prende in avversione e desidera liberarsi di lei. I rimedi legali che fornisce la Bibbia per un caso come questo sono i seguenti. Se i genitori della moglie possono produrre i segni della verginità della fanciulla e stendono il panno davanti agli anziani della città, il marito deve pagare al padre della sposa 100 sicli d'argento. Finché campa, non può rispedire la moglie dai suoi genitori. Ma se la verginità della sposa non viene provata in modo convincente, il marito può letteralmente disfarsene, perché la legge vuole che sia fatta uscire quella giovane fuori dalla porta della casa di suo padre e sia lapidata da tutta la gente della sua città finché muoia. Dalla Bibbia veniamo a sapere che c'è una buona ragione per l'uccisione di una donna non più vergine al momento del matrimonio. Infatti, ella ha compiuto infamia in Israele, commettendo meretricio nella casa paterna. Tradotto in linguaggio moderno, ella deve essere uccisa come punizione per aver portato disonore non solo al padre, ma alla sua più ampia famiglia, le 12 tribù di Israele. Ma in che cosa consiste questo disonore? Quale offeso, quale danno ha effettivamente arrecato a suo padre e al suo popolo la perdita della verginità della ragazza? La risposta è che una donna che si comporta come una persona sessualmente ed economicamente libera è una minaccia per l'intero edificio sociale ed economico di una società rigidamente dominata dal maschio. Un comportamento di questo tipo non può essere incoraggiato, pena la disintegrazione dell'intero sistema sociale ed economico. Da qui la necessità di una fortissima condanna sociale e religiosa e della massima pena. Da un punto di vista estremamente pratico, le leggi che regolavano la verginità della donna erano fatte per proteggere quelle che erano essenzialmente delle transazioni economiche dell'uomo, esigendo un indennizzo per il padre se l'accusa alla donna si rivelava infondata. La legge puniva la diffamazione della reputazione di onesto mercante dell'uomo. La legge forniva al padre un'ulteriore garanzia. Se l'accusa si rivelava infondata, la mercanzia in questione, sua figlia cioè, non poteva più essere resa. D'altra parte, la legge proteggeva anche il padre tramite gli uomini della città che lapidavano a morte sua figlia se l'accusa era vera. Siccome la sposa disonorata non poteva più essere venduta, si provvedeva a distruggere questa merce ormai priva di valore economico. Analogamente, le leggi bibliche sull'adulterio, che imponevano che sia l'adultera che l'adultero venissero uccisi, servivano a punire un ladro, l'uomo che aveva rubato la proprietà di un altro, e a distruggere una merce danneggiata, la moglie che aveva disonorato, tra virgolette, il marito. Ma gli uomini che fecero le regole che avrebbero tramandato questo ordinamento socio-economico non parlavano un linguaggio commerciale così grossolano, anzi affermavano che i loro editti non solo erano morali, giusti e onorevoli, erano addirittura il verbo di Dio. E ancora oggi, essendo stati educati a considerare le sacre scritture, tra virgolette, come frutto di una saggezza divina o quantomeno morale, è difficile per noi valutare la Bibbia obiettivamente e capire il pieno significato di una religione in cui la divinità suprema e unica è un maschio. Ci è stato insegnato che la tradizione giudaico-cristiana è il più grande traguardo morale della nostra specie. La Bibbia si occupa principalmente di ciò che è giusto o sbagliato, ma ciò che è giusto o sbagliato in una società dominatore non lo è necessariamente in una società mutuale. Abbiamo già fatto notare che sia nel giudaismo che nel cristianesimo, ma la morale della Bibbia è a dir poco oppressiva. Nel suo aspetto peggiore è una pseudomoralità, in cui la volontà di Dio è un espediente per nascondere barbarie e crudeltà. Per esempio, in Numeri 31 leggiamo di ciò che avvenne dopo la caduta di Madian. Gli antichi invasori ebrei, dopo aver ucciso tutti i maschi adulti, fecero prigioniere tutte le donne di Madian e la loro prole. A questo punto Mosè disse che questo era l'ordine del Signore: uccidete tutti i bambini maschi e tutte le donne che abbiano conosciuto l'uomo con lui giacendosi, ma le fanciulle vergini serbatele per voi. Come spesso accade nella Bibbia, il comandamento di Dio era una punizione. Dopo la vittoria, secondo Mosè, urgeva il problema della colpevolezza di queste prigioniere. Ma ciò non spiegava perché Dio avesse ordinato le fanciulle vergini serbatele per voi. Una possibile spiegazione di quest'ordine è che gli uomini delle caste dominanti avevano intuito che, anche se gli uomini ai loro ordini avrebbero ucciso volentieri le donne più vecchie e i bambini, sarebbero stati molto riluttanti a distruggere il loro bottino di fanciulle vergini, perché queste potevano essere vendute come concubine, schiave e persino mogli. L'imposizione di una morale dominatore è stata talmente efficace che ancora oggi uomini e donne che si reputano persone buone e morali possono leggere simili passi senza chiedersi come un Dio giusto e imparziale, tra virgolette, abbia potuto ordinare atti così orribili e disumani. Né sembrano mettere in discussione la moralità di certi musulmani che ancora ai nostri giorni, per una qualsiasi infrazione sessuale, reale o immaginaria, considerano loro dovere proteggere la virtù, minacciando di morte o addirittura uccidendo le loro stesse figlie, sorelle, mogli e nipoti. Noi si chiedono come mai debbano ancora essere rispettosamente definiti morali, precetti che ai loro stessi occhi e a quelli degli uomini in generale privano di ogni valore la metà femminile dell'umanità, a meno che ella non sia sessualmente pura, tra virgolette. Infatti, nel momento in cui ci poniamo queste domande, la nostra mente non è più quella richiesta da una società dominatore. Di fatto, grazie a una continua manipolazione mentale, Milioni di persone ancora oggi sembrano incapaci di capire ciò che esprime in realtà la nostra letteratura, tra virgolette, sacra, di come essa si serva a mantenere le barriere che ci tengono imprigionate e imprigionati in un sistema dominatore. Forse l'esempio più sorprendente di questa cecità indotta dai sistemi è il modo in cui la Bibbia si occupa della violenza carnale. Nel libro dei Giudici, capitolo 19, i sacerdoti che scrissero la Bibbia ci raccontano di un padre che offre sua figlia vergine a una masnada di ubriachi. Egli ha in casa un ospite, un uomo della tribù di casta alta dei Leviti. Una manica di scalmanati della tribù di Beniamino reclama l'ospite con l'apparente intenzione di abusare di lui. Guardate, dice loro il padre, ecco qui mia figlia che è vergine, è la sua concubina dell'ospite. Le condurrò a voi. Abusatene e fate di loro quel che vi piace, purché non commettiate una simile infamia sul mio ospite. Questo ci viene detto con noncuranza, come una faccenda di poco conto. Poi, con il procedere del racconto, apprendiamo di come il levita dovette prendere la concubina e consegnarla a essi, quali ne abusarono e la violentarono per tutta la notte fino al mattino, di come lei si trascinò fino alla soglia della casa dove il suo signore, tra virgolette, stava dormendo, di come quando lui si svegliò e aperta la porta della casa uscì per riprendere il cammino, inciampò su di lei e le ordinò: alzati e partiamo, e infine di come, accorgendosi che era morta, caricò il suo cadavere sull'asino e tornò a casa. In nessun punto di questo racconto brutale del tradimento della fiducia di una figlia e di una moglie e dello stupro e dell'uccisione di una donna indifesa a opera di una banda di depravati c'è un seppur minimo accenno di compassione e tantomeno di indignazione morale o di scandalo. Ma la cosa più significativa e stupefacente è che l'offerta del padre di sacrificare quello che all'epoca era l'attributo più prezioso della figlia, ovvero la verginità e probabilmente anche la sua vita, non violava nessuna legge. Ancora più stupefacente è che anche le azioni da parte di una banda che presumibilmente portarono allo stupro, alla tortura e infine all'assassinio di una donna che era pur sempre la moglie del levita, non violavano legge alcuna. E questo in un libro apparentemente pieno di infiniti divieti e comandamenti su ciò che è giusto o sbagliato. In breve, la morale di questo testo, tra virgolette, sacro, che pretende di esprimere la legge divina, è talmente povera che in esso si può leggere che una metà dell'umanità poteva essere legalmente destinata allo stupro, alle botte, alla tortura e alla morte dagli stessi padri e mariti, senza che questi dovessero temere una punizione o anche solo un biasimo morale. Ancora più brutale è il messaggio di una storia che ancora oggi viene regolarmente letta come parabola morale ad assemblee e classi di bambini che vanno a dottrina, tra virgolette, in tutto il mondo occidentale, la famosa storia di Lot, l'unico essere risparmiato da Dio quando furono distrutte le città immorali e corrotte di Sodoma e Gomorra. In Genesi 19:8 si narra con la stessa prosaica insensibilità di come Lot, in quello che sembra fosse un costume diffuso e socialmente accettato, offra le sue due figlie vergini, probabilmente ancora bambine, visto che all'epoca le ragazze si sposavano molto precocemente, a una folla che minacciava due ospiti maschi in casa sua. Ancora una volta non c'è alcun accenno alla violazione di una legge, né espressioni di giusta indignazione per il fatto che un padre possa trattare le sue figlie in modo così snaturato. Al contrario, siccome i due ospiti di Lot risultano essere angeli mandati da Dio, quando il Signore fece piovere su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco a causa della loro perversione, per la sua perversione Lot fu addirittura premiato. Soltanto lui e la sua famiglia vennero risparmiati. Secondo il punto di vista della teoria della trasformazione culturale, cosa possiamo imparare da questi esempi della morale biblica e del sistema che essa era destinata a mantenere? Chiaramente una morale che sosteneva la schiavitù sessuale della donna nei confronti dell'uomo venne imposta per soddisfare le esigenze economiche di un sistema a rigido dominio maschile, in modo che la proprietà fosse trasmessa da padre a figlio e i frutti del lavoro di donne e bambini fossero goduti dal maschio dominante. Questa morale venne imposta anche per realizzare la necessità politica e ideologica di capovolgere totalmente le realtà sociali del precedente ordinamento in cui le donne erano individui sessualmente, economicamente, politicamente libere e la dea era la divinità suprema. Solo attraverso un simile capovolgimento si poteva mantenere una struttura di potere basata su una rigida gerarchizzazione. Come abbiamo visto, non a caso, in tutto il mondo antico, l'imposizione del dominio maschile coincise col passaggio da un sistema di organizzazione della società umana pacifico ed ugualitario a un ordinamento gerarchico e violento, retto da uomini rozzi e brutali. E secondo la teoria dei sistemi, non è una coincidenza che nell'Antico Testamento le donne fossero escluse dal loro precedente ufficio di sacerdotesse. In questo modo le leggi religiose che ora governavano la società venivano fatte esclusivamente dagli uomini. E non è una coincidenza che l'albero della conoscenza e della vita, un tempo associato al culto della dea, nella Bibbia venga descritto come proprietà privata di una divinità maschile suprema che rappresenta e legittima il potere assoluto di vita e di morte sulla società delle caste di uomini al governo e in generale di tutti i maschi sulle donne.